140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Auditorium Parco della Musica, Roma. La scuola italiana attraverso i filmati d'archivio. Alla Festa del Cinema di Roma, registro di classe di Gianni Amelio e Cecilia Pagliarani. Allora, nasce dalla volontà di fare un film sullo stesso argomento che non sono riuscito a fare. E allora ho ripiegato, ma non è stato un ripiego, è stata un'altra cosa, su un film fatto di materiali di archivio. Ho chiesto a Cinecittà se ci facesse entrare nei loro Sancta Sanctorum, dove nascondono delle cose molto preziose. Stessa cosa abbiamo fatto in RAI, stessa cosa abbiamo fatto al Ministero della Pubblica Istruzione, e ci hanno aperto dei tesori che probabilmente sono stati dimenticati. Io credo che le immagini del film, anche se sono datate, parlino ancora adesso, e comunque i problemi hanno cambiato faccia ma non sostanza oggi. Siamo in Lucania, in una scuola isolata in mezzo alla campagna senza luce elettrica, a 10 km da un paese molto piccolo. Il maestro è Emiliano, al suo primo anno di insegnamento in Lucania. I bambini parlano solo in dialetto. Praticamente incomprensibile per me la loro lingua. A un certo momento, dopo che loro stessi non capivano me, perché io vidi il primo giorno, i primi due o tre giorni che io arrivai a scuola, va bene. Dopo aver spiegato per circa mezz'ora un dato argomento, va bene, mi si alza in piedi un bambino e con la faccia innocentissima, va bene, mi dice: ma signor maestro, come parla? Perché non parla come parliamo noi? E a un certo momento hanno detto: visto che noi parliamo tutti il dialetto, perché non lo impara lei? È più facile che lei impari il dialetto che noi impariamo l'italiano. Incontrare i bambini e incontrare i maestri che sembrano venuti da un altro mondo, che impressione vi ha fatto? Pensando magari anche ai vostri anni di scuola più o meno lontani. Io credo che l'impressione per Cecilia è stata enorme, per me nessuna, perché io ho l'età che avrebbero i bambini che si vedono nel film, che hanno oggi, perché mi auguro che siano tutti vivi e vegeti. Insomma, io ero bambino nelle scuole, in una scuola come quella che si vede nel paesino della Lucania, dove c'è l'insegnante di Bologna e i bambini gli dicono: tu sei uno solo, noi siamo 20, fai prima tu a imparare il nostro dialetto che non noi il tuo italiano. Io non ci sono stata, e non, però nel senso non sono ovviamente di quell'epoca, ho fatto la scuola elementare alla fine degli anni 70, però ho visto tanti archivi, mi occupo specialmente di film d'archivio, li ho visti in tutta Europa, e quello che è molto speciale, forse noi italiani ce lo dimentichiamo, è proprio questa varietà di lingue che abbiamo in un piccolo paese come il nostro, che non si ritrova negli altri archivi europei. È molto interessante, gli altri archivi europei i protagonisti avrebbero avuto un accento, non un'altra lingua. Dopo una giornata di lavoro nell'officina o nei campi, gli alunni della scuola popolare sono stanchi. Ma non importa, i libri non sono più muti, cominciano a parlare. Le prime parole del sillabario cullano ormai come una musica d'oro le loro prime ambizioni. Un giorno essi leggeranno le parole di un grande poeta. Poi ci parla di scuola dell'obbligo. Io la parola obbligo riferita alla scuola la eliminerei e direi scuola del diritto. Sarebbe stata un'espressione molto più appropriata, perché tutti abbiamo il diritto all'istruzione e lo Stato ne guadagna se ha delle persone istruite. Non guadagna nulla, ma perde molto se questa istruzione la dà con la mano sinistra, non l'aiuta, non la alimenta. Parlo per esempio di come sono spesso abbandonati a loro stessi gli insegnanti, di come la classe degli insegnanti sia sottovalutata, come se fosse un mestiere di serie B. a livello anche economico, perché poi voglio dire tutto si riduce in concreto a certi trattamenti che un insegnante ha e che possono portare anche a un disinteresse, certo, quasi ovvio poi, no? Mi trattano, elimina la trasmissione. Sì, questa. Mi trattano così, dunque non mi stimano, dunque io abbandono quello che è stato un mio bisogno, perché chi ha fatto le magistrali credo che avesse proprio anche la voglia di essere poi a contatto con i bambini, e quella voglia vi assicuro gliel'hanno fatta passare. Diciamo che lo scopo, quindi il senso del film, lo sapevamo quello che avremmo voluto in un certo senso trovare, poi la ricerca è sempre come quando si va alla ricerca di un tesoro, quello che abbiamo trovato ci ha permesso di comunicare questa parte così emotiva e così intima della storia italiana. Penso che siamo riusciti a farlo in un modo che è molto comprensibile a tutti, che parla a chi è più colto ma anche a chi solamente parla la lingua delle emozioni, diciamo, e quindi speriamo che venga visto dal numero più grande di persone possibili, proprio perché è importante rifletterci sulla scuola. Avete notato l'assenza di ministri? Abbiamo dato la parola agli altri, a quelli che contano. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gianni Amelio e Cecilia Pagliarani. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.